Nonantola 25 maggio 2010. Hai un dolore acuto in una articolazione del tuo corpo che non ti lascia dormire di notte e ti impedisce di muoverti della mente. Vai dal dottore, il quale, dopo aver esaminato accuratamente la parte dolente, ti prescrive una pomata la quale però si rivela inefficace. Vai da uno specialista che ti prescrive una serie di terapie e anche queste, dopo un breve sollievo, non risolvono il tuo problema. Un tuo amico, nel sentire la tua continua lamentela in merito al dolore, ti consiglia di andare da un bravo massaggiatore, ma anche questa soluzione ha un rimedio temporaneo. Il dolore acuto rimane. Per caso una persona che ti ha affezionato ed ha avuto la tua stessa problematica, ti consiglia di prendere una certa pastiglia con alcuni principi attivi che agiscono sulle articolazioni. E tu, ormai sfiduciato da chi, nonostante la sua competenza, non ha saputo togliere il tuo dolore, ingerisci, un poco incredulo, tali pastiglie e, come per miracolo, avverti subito un benessere, il quale, in poco tempo, toglie l'acuto dolore e ti permette di muoverti come se il dolore non ci fosse mai stato. Senza che nessuno ti abbia detto qualcosa, subito ne parli con altri che hanno lo stesso acuto dolore, incoraggiandoli a prendere queste pastiglie, ma questi rimangono increduli, sia perché tu non sai spiegare loro cosa contengono queste pastiglie, sia perché non sei competente in materia. Le loro remore sono più che rispettabili, il loro scetticismo non può essere criticato, ma alla fine tu termini con una forte e indignata testimonianza. È vero quello che dite, ma io vi garantisco che funziona. Funziona. Io sono guarito e, se ha guarito me, può guarire anche voi. Questo è il nostro umano modo di comportarci. Metodo tra l'altro non innovativo, perché ho letto da qualche parte che secoli addietro molti malati sedevano ai bordi della strada esponendo le loro malattie. E se qualcuno era stato affetto dalla stessa patologia e ne era stato guarito, dava la sua testimonianza. Alla fine, noi esseri umani, quando abbiamo serie problematiche, non stiamo ad indagare a quale partito politico o religioso appartiene chi parla. Non stiamo ad osservare se il salvagente che ci viene buttato mentre stiamo annegando sia di marca o di nostro gradimento, ma afferriamo il mezzo di salvezza e solo dopo essere stati salvati o guariti, siamo in grado di verificare il mezzo che ci ha liberati. Così, prima provo la pastiglia o afferro il salvagente, poi esamino l'oggetto della mia salvezza. Ma soprattutto, posso avere la ferma convinzione, mi sono accertato o verificato, che la pastiglia o quel tipo di salvagente sono validi. Ogni altro ragionamento, per screditare questi mezzi di salvezza o di liberazione, risultano inutili al mio orecchio. La mia esperienza è valida, più di ogni altra argomentazione. Una delle più grandi scoperte che lasciano a bocca aperta il credente nella sua crescita cristiana, al punto da portarlo, a volte ad un serio trauma, è accorgersi che nell'ambito del cristianesimo non tutti interpretano la volontà di Dio nello stesso modo. Benché ci sia un unico testo, un'unica legge, un'unica Bibbia, i cristiani hanno teologie differenti, insegnamenti pastorali disuguali e, perfino, obiettivi non condivisibili. A chi dare retta? Hanno tutti ragione? Che interpretino tutti la volontà di Dio rettamente, che abbiano tutti ragione, è impossibile, dato che le loro interpretazioni sono contrastanti. Se fossero solo verità opposte, nulla da dire, perché Dio ama ma anche odia. Perché esiste il paradiso, ma anche l'inferno. Tuttavia, quando si afferma una verità che contrasta con altre, questa verità si trasforma in menzogna. Se si sostiene che Dio ama tutti gli uomini e per questo tutti saranno salvati, si dice una verità per affermare una menzogna. E, in questo contesto di verità e di errore che normalmente il credente respira la sua vita cristiana, trovandosi ininterrottamente e in ogni istante a valutare ciascun ragionamento e comportamento per sapere se rientra nella volontà di Dio. E, come se non bastasse già la sua confusione, scopre anche che, in fondo, per tante questioni, se lui ha ragione, gli altri non necessariamente hanno torto. Come ci si deve comportare? Come per una malattia anche nel campo spirituale ognuno propone la sua terapia. Se poi questa non funziona a livello personale, ci viene anche consigliato di rivolgerci agli specialisti in materia, cioè coloro che hanno studiato teologia. Ma finiamo per scoprire con amarezza che anche costoro sono condizionati dalla scuola teologica nella quale sono stati formati, senza riuscire di conseguenza a liberarci dei tormentosi dubbi che ci rodono l'anima. Si pensa di essere nella volontà di Dio, ma possibile che migliaia di altri credenti, pensandola diversamente, sbaglino? Non posso essere nell'errore, nonostante la mia sincera convinzione di essere nel vero, quella stessa persuasione di cui tra l'altro vedo animato anche il fratello? Sono forse migliore del mio prossimo? È vero, non sono migliore del mio prossimo, ma quale garanzia posso avere che la sua interpretazione della volontà di Dio sia quella giusta? E poiché non c'è nulla di nuovo sotto il sole, come facevano i primi cristiani a risolvere questi interrogativi? Le sacre scritture esistevano anche al tempo di Gesù e degli Apostoli, eppure anche tra i credenti vi erano opinioni diverse, correnti teologiche e discordi. Come risolvevano i primi cristiani tali problematiche? L'Apostolo Paolo, nell'ultima lettera scritta al suo figlio spirituale Timoteo, dà un ordine che è una delle più importanti soluzioni ai nostri interrogativi. Persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza. 2 Timoteo 3.1.4. Poiché potrebbe essere pericoloso insegnare una verità così importante basandoci su di una traduzione soltanto e sapendo che è soggetta a errori, ho consultato più di 10 versioni della Bibbia, sia cattoliche sia protestanti. Le Bibbie cattoliche di Giuseppe Ricciotti, di Bonaventura Mariani, la Nardoni, la Bibbia di Gerusalemme, la Bibbia concordata, ordinano di rimanere fermi in ciò che si è persuasi, in ciò che si è convinti. Ma una tale traduzione è molto ma molto pericolosa, perché anche i terroristi nel compiere degli attentati stanno facendo ciò di cui sono pienamente convinti. Convinzione non è sinonimo di comportamento corretto. Forse è per questo che in seno alla grande Chiesa Universale di Cristo ci sono tante divisioni. Ognuno è convinto di essere nel giusto, e quindi cambiare sarebbe tradire la verità. Ecco perché l'edizione ufficiale della CEI traduce l'ordine di Paolo: tu però rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto. In definitiva, l'ordine delle traduzioni cattoliche è di non allontanarsi dall'insegnamento ricevuto dalla religione cattolica, quell'insegnamento che ha prodotto le sue convinzioni. In effetti, la più grande difficoltà per un cattolico nell'accettare l'Evangelo è proprio quella di dover cambiare usanze in merito alla veridicità delle quali è pienamente convinto. Problema questo fortemente presente anche nell'ambito del protestantesimo, nel quale credenti osservanti trovano traumatico dover cambiare abitudini religiose osservate per decenni. Così è quasi impossibile accettare l'ordine di non allontanarsi da ciò che si è convinti sia giusto. E tale atteggiamento lo troviamo anche in tutte le altre religioni, nella politica e nei gruppi estremisti. Dio, nella sua parola, ci vuole dire altro. Dio ci vuole persevera Nuovo Testamento in ciò che abbiamo imparantico Testamento, cioè che con Nuovo Testamento INUIAM ho a fare ciò che ci è ST Antico Testamento insegnantico Testamento me a dopo. Averne a pur Antico Testamento, risco Nuovo Testamento, Antico Testamento e verificantico Testamento L.A. validità nella nostra esistenza. Ecco il punto. Il credente non deve solo ascoltare e ubbidire agli insegnamenti ricevuti, ma deve pure verificare se ciò che gli viene insegnato e ordinato di fare trovi un riscontro nella vita. E per riscontro si intende che, ad esempio, una medicina è per me efficace se, assumendola, mi toglie il male. Diversamente, ogni argomentazione è inutile. Ho la possibilità di coltivare da vari anni un orto e di pareri relativi al miglior modo di seminare, al giusto momento per seminare, al più efficace trattamento per le piante, ne ho avuto in abbondanza. Come se ciò non bastasse, ho visto in televisione un programma, proposto per i coltivatori, dove un esperto suggeriva, con una certa autorità, di seminare tenendo conto delle fasi lunari. 2 settimane dopo, un altro esperto, con altrettanta sicurezza, dichiarava che le fasi lunari non hanno nessuna influenza sulla semina. Chi aveva ragione? A quale esperto dovevo porgere ascolto? Dovevo rodermi il fegato perché non erano d'accordo? Dovevo proporre il mio problema ad altri? Dovevo farne oggetto di discussione? Oppure era più saggio verificare o riscontrare personalmente la validità di quanto propinato? Presto detto, ho seminato varie volte tenendo conto delle fasi lunari. Altre volte invece senza tenerne conto e dopo aver verificato o appurato la validità di un'affermazione, ho continuato su quella strada. Nel dubbio, ho aspettato i risultati positivi. Ora, ho delle profonde convinzioni prodotte dai risultati della Terra. Del resto, stessa cosa si fa nel campo della medicina. Se si sono fatti enormi progressi è perché si è visto che un dato farmaco produce un certo benessere, e non perché si era convinti dell'efficacia del farmaco. La convinzione è stata prodotta dopo i risultati. Ricordo ancora quando in televisione molti anni fa dichiararono che lo spirito, che serviva per disinfettare quello che oggi viene chiamato alcol, faceva anche male. Una convinzione si cambia quando non vi sono i giusti e aspettati riscontri. Così è e deve essere nel campo di Dio. Molti sono i pareri in merito a come seminare la parola di Dio, cioè evangelizzare, a come coltivare le pianticelle, i credenti, a come concimare il terreno, cioè di come nutrire la Chiesa. Ed è inutile litigare in relazione a chi abbia ragione e cosa sia meglio, perché intanto il riscontro si avrà indipendentemente dalle mie convinzioni. Io posso essere profondamente convinto che seminare d'inverno non procuri danni al mio seme e non veder crescere nulla al momento opportuno. Quindi la cosa saggia per te è vivere la vita cristiana come ti è stata insegnata, ma senza omettere di verificare se ciò funziona, se vivi quella vita abbondante promessa da Gesù. Se hai del continuo la riconoscenza nel cuore, se sei animato d'amore per tutti, se riesci a provocare negli ascoltatori delle prese di posizioni nei confronti di Cristo, se trascorri le giornate nella pace, nella serenità e fiducia in Dio, se l'altro per te non rappresenta un nemico da combattere, ma un fratello da conquistare, allora procedi con... Quando Gesù disse, ora andate e imparate, che cosa significa? Io voglio misericordia e non sacrificio, Matteo 9,13. Voleva dire proprio questo. Gesù non vuole solo che tu sia ligio a ciò che ti è stato insegnato, ma che impari, per il semplice motivo che ancora non lo sai, ad avere misericordia, cioè quell'atteggiamento di comprensione e di perdono verso chi non ha accertata o verificata la sua fede, e verificherai che è la via giusta. Traduzioni di alcune Bibbie di 2 Timoteo 3.1-4. Edizioni San Paolo. Tu però rimani fedele alle cose che hai imparato e delle quali hai acquistato la certezza. Nuova Diodati. Tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato. Nuova Riveduta. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza. Traduzione letterale dal greco. Tu rimani nelle cose che imparasti e fermamente accettasti. Testo italiano a cura di Pier Giorgio Beretta. Tu però rimani saldo nelle cose che hai imparato e che credi fermamente. Diodati. Ma tu persevera nelle cose che hai imparato e delle quali sei stato accertato. Nardoni. Ma tu rimani fedele a quello che hai imparato e di cui sei pienamente convinto. Mariani. Bonaventura. Ma tu rimani saldo in ciò che hai appreso e accettato con ferma fede. Giuseppe Ricciotti. Tu attieniti a quello che hai imparato, di cui ti sei fatto persuaso. Concordata. Tu invece permani in ciò che hai imparato e di cui sei persuaso. Salvatore Garofalo. Ma tu persevera in ciò che imparasti e con tanta convinzione accettasti. Gerusalemme. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto. Nuovo Testamento greco-italiano di Merck. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto. Edizione ufficiale della CEI. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto.